nulla deve finire. Ci sono un sacco di cose che iniziano e un sacco di cose che finiscono. Ma ciò non significa che ogni cosa debba andare così. All'arco della tua vita ci sono cose che non ti abbandoneranno mai. Sai, la vita è un gioco di merda. È un gioco di merda dove la partita di ogni persona influenza quella degli altri. A volte lo fanno in modo positivo, a volte in modo negativo. Ci sono troppe variabili. Tocca a te scegliere. Però io ti consiglio soltanto una cosa. Devi smetterla di provare. Fallo e basta. Smettila di provarci, fallo. Buttati. È inutile continuare a provare e poi tirarsi indietro. Intanto comunque anche quando starei male o quando sarai felice, sarà perché sei vivo. Sfrutta le tue occasioni. Solo così ti puoi sentire realmente vivo. Anche se molto probabilmente farà male, buttati. Devi essere masochista. Farà male, ma almeno tu non avrai rimorsi. In questo caso ti sei buttato ed è andata male. Magari la prossima volta non sarà così. Forse ho sbagliato, io ci ho provato anche con l'anima. Ma quella volta non mi sono scordato, ma non ci sono riuscito ad andare via di qua. Buttare via giorni ed ogni lacrima, però quando guardo ogni tua foto ancora c'è un brivido lungo la mia schiena che fa un po' paura. E se ti vedo tra la folla io mi incazzo per ore, per non averti avuto prima quando era amore. Già, quando mi metto in testa di dimenticare tutto, torni tu che mi rovini i piani e poi ti faccio brutto. Per poi fare venire i sensi di colpa a me, risponderti con una traccia per farti capire che quello che è successo a noi io non lo dimenticherò mai. Giusto o sbagliato non importa, la migliore scelta sei stata tu. Dietro non mi volto e anche se triste domani arriverà e non ci sarò. L'amore non è possedere ma lasciare vivere. Lasciami descrivere come sei fatta. Un giorno capirai che dai problemi non si scappa. Siamo diversi e lontano da noi. Rimango solo con le foto fatte da una Polaroid. Io salgo sul palco, tu metti lo smalto e mi guardi in TV. Mentre tu sei giù ricordati che ci sarò per sempre io, pronto a tirarti su. Non dirmi che mi ami, diresti una bugia. E stringimi le mani, forza, andiamo via. Insieme, per sempre, insieme. Siamo come il Polo Nord del Polo Sud, due punte estreme. Quello che è successo a noi io non lo dimenticherò mai. Giusto o sbagliato non importa, la migliore scelta sei stata tu. Dietro non mi volto e anche se triste domani arriverà e non ci sarò. Ti aspetterò, anche se dico che non ci sarò. Mi faccio coraggio e vado avanti con la vita. Lo so che non potrai mai essere mia amica, perché sul mio cuore è ancora aperta una ferita. Il cuore in pace io mi metterò, probabilmente senza te io non sopravviverò. Voglio giocare con te ogni singola partita. Lasciami sporcare questo foglio con una matita. Quello che è successo a noi io non lo dimenticherò mai. Giusto o sbagliato non importa, la migliore scelta sei stata tu. Dietro non mi volto e anche se triste domani arriverà e non ci sarò. Quello che è successo a noi io non lo dimenticherò mai. Giusto o sbagliato non importa, la migliore scelta sei stata tu. Dietro non mi volto e anche se triste domani arriverà.